La chiappa comete. Una tela non è mai vuota, cage. Quelle vele sono bozze di stampa che non hanno bisogno di correzione, draw. The muses are daughters of memory, pound. Nei penitenziari c'è sempre un brusio di voci in sottofondo, dal giornale Repubblica degli anni 90. Mano a mano la chiappa Chiappa comete, comete. che le dimensioni del nucleo, la chiappa Chiappa comete. comete, si ingrossano la chiappa Comete. comete per effetto della gravità, la chiappa Chiappa comete, la comete. struttura rotante, la chiappa comete, Comete. prende forma la La chiappa chiappa comete, al comete. centro la chiappa Chiappa comete, comete. il protosole. La chiappa Chiappa comete che comete. raccoglie oltre la La chiappa comete, comete. il 98% la A che chiappa piape? comete, dei materiali vaganti, la chiappa Ah, che comete, chiappe? l'altro 2% la chiappa Ah, che comete, chiappe? sparso la chiappa Che comete nello chiappe? spazio, la chiappa Ah, che comete, chiappe? addensato dapprima la chiappa Ah, che comete, chiappe in grani la chiappa te? Chiappe comete, poi comete? in piccoli nuclei la Ah, chiappa che comete, schiappe rotanti la chiappa te? Ah, che comete, schiappe te? in planetesimi la Ma chiappa che schiappe? comete. Un vorticare di la chiappa Chiappa comete, comete? massi la chiappa A chi è comete, chiappa che costano comete? tra loro la A chiappa chi è chiappa comete, si comete? riuniscono la chiappa A chi è chiappa comete, si comete? spezzano la A chiappa chi è chiappa comete comete? e tornano la chiappa A chi è chiappa comete a comete? fondersi, la A chiappa chiappa comete comete? assumendo la A chiappa chiappa comete, una comete? simmetria la A chiappa chiappa comete? comete sferica Che la te chiappa chiappa? comete. Quando una cometa, la A chiappa chiappa comete, comete? penetra la chiappa A chi che comete, nelle regioni spazzate la Ma chi chiappa ta comete, chiappa? dalla intensa radiazione la chiappa Ma chi ta comete, chiappa? solare la chiappa Ma che comete, si schiappa? accendono la chiappa Ma che comete, le schiappe? chiome la chiappa Ma che comete, e le schiappe? immense code la chiappa Ma che comete, lunghe chiappe? anche la Ma chiappa comete, che milioni di chilometri la chiappa schiappe? Ma che comete, per schiappa? tornare a spegnersi la chiappa A chiappa comete, quando comete? sono lontane A la chiappa chiappa comete? comete dal sole, la A chiappa chiappa comete, comete? le loro orbite, la chiappa A chiappa comete, comete? sono la chiappa A chiappa comete, comete? frastagliate, la chiappa A chiappa comete, comete? dai colpi di racchetta, la A chiappa chiappa comete, comete? gravitazionali, la A chiappa chiappa comete, comete? dei corpi, la A chiappa chiappa comete, comete? dei grandi pianeti, la chiappa A chiappa comete, comete? perdono massa, la chiappa A chiappa comete. comete? Evaporando la A chiappa chiappa comete? comete, ghiaccio la chiappa A chiappa comete, comete? polveri la A chiappa chiappa comete? comete, alcune si frantumano la A chiappa chiappa comete, comete? insomma la chiappa A chiappa comete comete? rappresentano la A chiappa chiappa comete? comete, la trasgressione la A chiappa chiappa comete, comete? nella severa A chiappa la chiappa comete? comete, orologeria celeste la chiappa Ma che schiappa? comete, perciò Ma la che chiappa schiappa? comete, erano la Ma chiappa che comete, schiappa? viste la chiappa Ma che comete in schiappa? passato. La Ma chiappa che comete, chiappe? con terrore, Ma la che chiappa schiappe? comete, segnali, Ma che la chiappa tacchiappa? comete, dell'imprevisto, Ma la che chiappa tacchiappa? comete che non Ma chi poteva, la la chiappa una chiappa comete? comete che Ma chi la portare, chiappa la una chiappa comete? comete, Ma chi la chiappa una comete? catastrofi, la chiappa Ma chi la comete. chiappa una comete?